Radio 24. Libera la voglia di fare. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Leggo oggi, vedete fino a che punto può arrivare l'amore per gli animali, secondo me la follia naturalmente, ma la gente è arrivata al punto di rendere pubblica una lettera che racconta un lutto straziante, la necrologia per un cane, sulle pagine del Mattino di Padova. Non c'è giorno che non pensi a te. Uno pensa, no, che si tratti di una persona, invece è un cane. Non c'è giorno che non pensi a te. Chiudo gli occhi e ti vedo nei tuoi gesti quotidiani. Sento i tuoi baffetti pungere, sento il tuo calore e il tuo profumo. Tutto questo mi dà la forza di andare avanti. Voglio pensare che tu da lassù mi proteggerai sempre. Sei stata, sei e sarai sempre la mia vita. La mia Tutsi Pipa, firmata la tua mamma. No, aspetta. No, aspetta, voglio dire, non siamo su scherzi a parte, la ragazzi. Tutsi Pipa. Amici miei. Che volete che vi dica? Che volete che vi dica? Punto. Che volete che vi dica di fronte a queste cose? Uno poi dice, beh, non puoi mettere in discussione l'amore. No, certo, la tua mamma però, la tua mamma. C'è una specie di sostituzione. C'è la sostituzione dei figli con gli animali. E le mamme, ma dai ragazzi, su, ma è una follia, dai. Beh, però poco male, insomma. Ma sì, ma non fa male a nessuno, cioè, certamente. In fondo sono sempre degli affetti, no? E quindi è bello avere degli amori, degli affetti, delle sensibilità. Sì, assolutamente. Lo trovo comunque carino. Comunque io ringrazio Cruciani perché è il nostro, come si dice, sì, vogliamo è il nostro sponsor. Non si, no, questa non è la zanzara, no. Non state ascoltando la puntata della zanzara, però ci è sembrata molto divertente questa lettera. Che no, ma Giuseppe poi io Cruciani voglio ringraziare Giuseppe veramente perché lui credo che sia inconscia questa cosa, ma ci fa una pubblicità pazzesca. Sei vabbè, conscia in questo caso non ci ha mai cucitati. Scusa Giuseppe, potevi però tirarci in ballo no, e mandarci a quel niente. Paese, visto esatto. Che insomma è diventato una cosa. No, ma poi mi viene da ridere perché lui dice a rendere pubblica una lettera. Sembrava cane, un tratto Minoli, No, più che Minoli, non so se devo capire chi mi ricorda. Ma come? Voglio dire, ma lui rende pubblico che fa la pipì nel lavandino, che non ci si deve lavare, che le peggio cose di sesso e non sì, si può rendere ma sì, pubblica ma Cruciani una è estremo, lettera. Va bene così, però insomma ci offre dei punti di riflessione, degli spunti di riflessione molto molto allettanti, devo certo. dire, no? Allora, e ce ne sono diversi. Allora, vogliamo analizzare questa cosa qua. Prima di tutto, perché scrivere un necrologio per il cane? Perché poi effettivamente la cosa mi sembra un pochino estrema. Però, possibile che la sofferenza di una persona arrivi a tanto? Eh beh, questa cosa è possibile per diversi fattori. I principali sono il carattere di innocenza del cane sì, e poi il fatto che il cane sia capace di amore incondizionato. Cioè, cosa che l'uomo non è capace a fare. Cosa che gli esseri umani fanno un po' fatica a fare, per cui l'essere umano ti giudica tanto, spesso ci litighi. Le persone, quando arriva il lutto per un animale, soffrono così tanto, e normalmente i miei clienti mi dicono ho sofferto più per la morte del mio cane che per la morte del mio papà, per dire, e questa cosa qua succede ed è trasversale ed è abbastanza comune per tutti quando uno ha un rapporto con un animale. Allora il punto è chiedersi perché, che cos'è che succede. Certo. Allora quel carattere di innocenza, cioè il fatto che tu temi che il cane non gli abbia dato quel significato, il fatto che il cane sia capace di amore incondizionato, genera un rapporto così stretto e così profondo che ti fa soffrire tanto. E normalmente le persone che sono dentro quella sofferenza hanno paura pure a rivelarlo, perché la gente normalmente non capisce. Certo. Dice vabbè, ma cosa vuoi che sia un cane? E te non ti rendi conto che invece quella sofferenza è legittima. Perché se tu non l'hai provato non puoi capire, come dico io nella mia commedia, capito? Ma perché tu non hai mai provato ad averne uno di cane, quindi non sai che cosa significhi soffrire se il cane è morto oppure se il cane si è perso. Sì. Poi fra l'altro Giuseppe ogni tanto ridendo prende in giro e dice che i cani, fa la differenza fra personalità, le persone e i cani. Però come tu mi insegni, dottor Vaira, oggi la personalità fa anche parte degli animali. Gli etologi cognitivi, ne abbiamo parlato altre volte, dicono anche gli animali sono persone. È uscita poi dopo le ricerche fatte sulla scansione cerebrale di Gregory Burns, lui ha scritto un articolo pubblicato sul New York Times dal titolo Anche i cani sono persone. Persone deriva da una parola greca che significa maschera, significa carattere, personalità, no? E noi sappiamo che ogni cane ha una sua personalità, quindi non c'è motivo per non definire i cani persone. Abbiamo letto delle sentenze da parte, per esempio, dell'Argentina, da parte delle Filippine, riconoscono lo status di animali, di persone non umane ai delfini, all'orangutan. Quindi, insomma, anche i cani sono persone. Quindi, caro Giuseppe, noi, se vuoi, possiamo fare un dibattito, veniamo alla tua trasmissione, vieni tu alla nostra, non vediamo l'ora di poterci confrontare. Così come anche il rapporto genitoriale. Poi tu a un certo punto ti innamorerai di un cane e la tua vita cambierà. La tua mamma Tutsi Pipa. Ciao a Giuseppe, ciao a David. Vi vogliamo bene. Ok, dice, mandiamo il traffico, pubblicità, sì, eccetera. Traffico. Ci vediamo tra poco. Ciao. Tomlinson, good morning. Ça va, vous qui nous écoutez chez vous la maison? Bonjour Julie. Bonjour. Aus l'antirassistische Netzwerk Sachsen-Anhalt. 24 mattino di Alessandro Milan. Ma dove eravate finiti? Il Parlamento è aperto ogni giorno dalle 6.30, caffè, brioche e giudizi in libertà. E alle 7.20 vi leggo i giornali gratis. Alessandro Milan, il boss dell'informazione. Oh, vi aspetto, è dal lunedì al venerdì. E siccome la carta costa, scopriremo anche l'articolo più inutile del giorno. Ma chi se ne frega? Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. E a proposito di chiedimi se sono felice, vi voglio ricordare il nostro indirizzo email, chiedimi se sono felice @radio24.it, perché le leggo sempre, rispondo sempre. Sono stata molto colpita da una mail che ci ha mandato Clelia, molto particolare. Allora, io poi ho chiesto a Clelia se mi poteva lasciare il suo numero di telefono e aveva voglia di raccontarcela lei direttamente, così potevamo confrontarci con lei direttamente. Clelia ha accettato e ce l'abbiamo qui in linea. Clelia? Buongiorno Rosita. Eccoti. Buongiorno, ciao Clelia. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Intanto tu sei di Tiene? No, io sono di Vicenza città. Ah, di Vicenza città. Tiene di provincia, una città di provincia. Allora, tu mi hai scritto una mail che mi ha fatto subito incazzare, poi dopo vi spiegherò perché. Perché girano delle ordinanze comunali che obbligano i proprietari di cani che vivono in città, quando portano il cane a fare una passeggiata, a fare bisogni in giro, a portarsi dietro una bottiglietta di acqua per pulire la pipì che fa il cane per terra. Ora, Clelia giustamente dice, non discuto ovviamente l'obbligo sacrosanto di dover raccogliere la cacca, le feci e anzi cafonissimi tutti quelli che la lasciano lì, aggiungo io, e ovviamente questa cosa è condivisibile, chiedere di evitare che facciano pipì davanti alle entrate delle case o davanti ai negozi, e quindi in questo caso sta nella civiltà di ognuno di noi, no? Sapere dove. Però, è una questione di buon senso, sì, di civiltà. Giustamente, però tu giustamente dici, però né per strada né che ne so, cioè, praticamente il cane uno deve prendere in braccio e portarlo al parco, uno che c'ha magari un bovano un bernese, come cacchio si chiama, insomma quelli, un San Bernardo. No, lei si riferisce non soltanto al fatto che bisognerebbe pulire con una bottiglietta piena d'acqua dove il cane fa pipì, ma anche al fatto che è suggerito di non far fare pipì sulle ruote delle auto, i muri delle città, ci stavamo mimando, eccetera eccetera. Quindi si dice, magari te col guinzaglio porta via il cane, che la faccia altrove. Che tu giustamente, Clelia, dici, con questo ragionamento si dovrebbe sanzionare lo Stato perché gli uccelli che vivono in città, come passeri e piccioni, fauna selvatica, quindi patrimonio indispensabile dello Stato, sporcano le strade. Giusto? Sì, si potrebbe per assurdo arrivare a questo seguendo un po' alla lettera questo ragionamento. Ora io ci tenevo a fare una precisazione, diciamo che tutta la mia curiosità è partita da una polemica che è nata nei mesi scorsi qui in provincia proprio per questa ordinanza del comune di Tiene. Al di là delle polemiche io cerco sempre di andare alla fonte, quindi ho cominciato a scaricarmi queste ordinanze e ho scoperto che oltre a quella di Tiene c'erano anche già altre città che avevano già provveduto. Esatto, ad esempio quella di Piacenza. Io mi sono presa queste due ordinanze e me le sono lette. effettivamente, allora sottolineo che io ho un cane, abito in città e a me stessa dà fastidio quando mi trovo il lago davanti all'entrata di casa. E quindi io stessa preferisco che il mio cane vada a farla al parco, vada a scaricare i suoi bisogni al parco piuttosto che in centro storico, però dalla strada, da casa mia al parco è abbastanza inevitabile che si fermi e magari faccia un goccetto. Ora, queste ordinanze scritte così autorizzano diciamo così anche i vigili particolarmente diligenti, coscienziosi a multare qualsiasi proprietario il cui cane fa anche una pipì lungo la strada. E mi sembrava un po' eccessivo, nel senso che potevano essere scritte a mio avviso meglio, specificando, discriminando i vari caso per caso. D'accordo, se mi fai il lago di pipì davanti alla vetrina all'entrata di una casa, e quella è abbastanza maleducazione, se me la fa su un muro qualsiasi distante da un campanello, un'entrata, eccetera, è diverso. Bisognerà capire che cosa, come vorranno applicare le cose ai vigili. Io devo dire che ho letto la lettera in risposta del sindaco, che si chiama il sindaco di Tiene, Giovanni Casarotto, e sì, devo dire però che io sono quasi totalmente d'accordo con lui. Questo vi sorprenderà. Allora, in poi, grazie al cavolo. C'è il grazie al cavolo che la ma che, co- ma che cosa stai dicendo? Ma almeno commenta bene. Ma cosa sta? No, grazie allora, al cavolo che. No, allora ti spiego. A me fanno incazzare, sai perché? Perché mi dà l'idea. Adesso poi sto facendo cercare da Miriam mio cugino Bruno a Milano, perché vi dico le nuove ordinanze, perché poi adesso ci sono questi diversamente intelligenti o diversamente amanti dei cani, degli animali, che si svegliano una mattina e decidono: ciao, va, i cani mi danno fastidio, come possiamo evitare? Però allora io chiedo coerenza. Non è questo l'intento del sindaco? No, vabbè, senti Angelo, ma il sindaco iniziasse a far rispettare la gente che butta le zozzerie per strada, gli uomini che fanno la pipì. Iniziare da lì, deve fare anche quello. Allora, io sono stanco di sentire sta roba, invece di occuparti di questo te devi occupare di quest'altro. No, mi occupo di tutte e due le cose. Ma non si occupano di nessuna, no. Sai qual è la verità? Allora, che poi sui cani rompono le palle e diventano delle cose paranoiche, e invece gli esseri umani continuano indisturbati a fare porcate. Ma questo non è il punto, non è l'ordinanza. Allora lì, allora il punto è come si applicano le cose, perché allora questa ordinanza qui innanzitutto bisogna dire che ha anche tanti pregi, perché prima nei parchi di Tiene, che sono menzionati nella lettera in risposta al sindaco, perché poi il sindaco è stato attaccato sui social dagli animalisti, no, per questa ordinanza qua. Però io vorrei precisare questo: possiamo anche discutere sulla bottiglietta d'acqua, su dove il cane possa fare o non fare pipì, ma questa ordinanza ha anche il grande merito di aver finalmente aperto dei parchi della città di Tiene ai cani, che prima invece erano preclusi ai cani. Quindi si è adeguato a quello che c'è. Io voglio raccontarvi però una storia che mi ha fatto molto riflettere. Tempo fa è venuto uno dei grandi della cinofilia nel mondo, Lars Falt, in Italia, e ha detto: io sono abbastanza così, mi colpisce questa cosa che vedo nei muri di Milano, perché fino ad una certa altezza i muri delle vostre case sono tutti sporcati della pipì dei cani. E io ho detto: ma che cosa vuol dire? Perché i cani dovranno fare pipì. E lui ha detto: perché che ci vuole a dire al cane, di insegnare al cane quando si esce di casa che non la fa immediatamente, ma che la fa un pochino più in là sull'albero? Questa roba ma qui non ci sono, dove accadeva, non ci sono gli alberi? Accadeva molti. Dove, allora ti spiego che cosa ho fatto io. Io da allora ho insegnato a Lachi a farla sulle aiuole, sugli alberi, a non farla. Ma dove, scusami, ci sono le aiuole con i cartelli vietato far entrare il cane? Ma mi no, fai perché, parlare? Beh, capisci mi fai che... Allora, io ho fatto questo e Lachi ha imparato tranquillamente a fare questa cosa qua. Quindi il mio cane non sporcava più lì. Ma Angelo, a un certo punto io sono stato a dormire per diverso tempo a Torino, in una zona dove praticamente non c'erano né alberi né aiuole. Che cosa? Gli Aki le prime volte si è dovuto sforzare di farla lì, su qualche paletto, sul cemento, eccetera, perché non, prima di arrivare ad un parco ci avrei messo troppo tempo, e quindi lui ha imparato a farla lì. No, quindi si è adattato. Allora, il punto è: se tu hai la possibilità, appena esci di casa, che incontri l'alberello e l'aiuola, preferibilmente gliela fai lì. Ma Angelo, ma lì è un'utopia, cazzarola. No, io l'ho fatto. Ma sì, un'utopia. Ma tu l'hai fatto. Ma ci sono. Fa. Ma senti, ma in Svezia, ho capito, si fanno un sacco di... Ma allora, parliamo di dove siamo noi. Ci sono città dove non c'hanno alberi. Quelli che ci sono c'hanno il e allora, la ringhiera... Farai... Scusa, ora fammi fammi parlare a me. Hanno la ringhiera intorno, ci sono le aiuolette con su scritto vietato col cartello far entrare il cane, e allora mi pigli per il culo. No, perché allora scusa, mi fai finire? Ma sono stata zitta, mo vedi come si vede, Clelia, vedi com'è la coppia democratica? Sì, allora voglio dire, dove ci sono, tu mi devi dare una seconda opportunità, perché sennò inizia a vietare di qua, vietare di là, vietare di su, vietare di giù. A me fa ridere perché poi ci sono i ragazzi che escono di discoteche ubriachi, che fanno pipì ovunque, e la pipì dell'uomo puzza molto di più di quella del cane. Ci sono, l'essere umano è l'essere più sporco che c'è, perché noi possiamo scegliere di essere persone pulite e siamo zozzi, mentre l'animale è una sua esigenza, se gli asfaltiamo i prati non è colpa sua. E allora a me viene da ridere, perché anche se sulla teoria un'ordinanza parte in modo intelligente, sulla pratica diventa solo una rottura di palle, perché tu mi devi dare miliardi di alternative. Il rischio qual è? Che poi dopo dei fanatici prendono ad esempio questa roba qui e magari la applicano in una città dove non ci sono uole, non ci sono piante, non c'è un cazzarola da fare. È diverso, come adesso, scusami, non so se c'è in linea anche mio cugino Bruno. Aspetta, però, aspetta un attimo con Bruno, se no non riusciamo a chiudere un discorso. Ah, sì, no, allora, il sindaco, nella sua lettera, dice: il significato vuole essere un forte invito ai possessori di cani a collaborare se e quando possibile. Quindi, questo ragionamento tuo in questa cosa è applicata. Se e quando possibile. Meno io male. Con Lucky, quando era possibile, gliela facevo fare sugli alberi. Sì, ma Angelo, ma come verifichi aiuole, quando è possibile oppure no col singolo cittadino? Se e quando possibile, per evitare che il cane possa fare i bisogni vicino a una vetrina o davanti alla porta di un'abitazione o sulla ruota di un'automobile o all'angolo di un edificio storico, eccetera, eccetera. Non certo quando fa la pipì sull'erba, sulla terra o contro il fusto di un albero. Allora vuol dire, te ti porti la bottiglietta perché se l'ha fatta davanti ad una vetrina o su, perché io ne vedo di queste porcate, scusami. Io non voglio passare in corso Garibaldi vedere la pipì di un cane sul dentro il negozio che qualcuno l'ha fatta lì, il negoziante non se ne è ancora accorto. Guarda che non c'è solo la pipì del cane in mezzo alla strada. Se ogni cittadino pulisse, ogni custode cittadino pulisse il suo uscio di casa, e ogni negoziante farlo. Fammi finire, e ogni negoziante pulisse fuori dal suo coso, le città sarebbero profumate, non ci sarebbero da fare queste ordinanze sui cani. La realtà è che invece non lo fa nessuno. Allora tu aspetti che chi ha il cane viene penalizzato, perché la civiltà è una civiltà che no, va a cazzo. E tutti gli altri lo fanno. Ma Angelo, io esco, la strada è suolo pubblico, ne succedono di ogni, sputano per terra, fanno qualunque cosa. Allora, ma perché devi far partire un'ordinanza che va a penalizzare chi si occupa di una bestia, di un animale che magari viene anche salvato da un canile o da qualche stronzo che ma lo quello, tortura? Quello è un altro paio di maniche. Ma no, perché il punto è in grado un cane di aspettare un attimo quando esce dal portone di arrivare al primo, ma no, ma al primo dipende, albero? Se ma ce non l'ha lì, tutti. Se non ce la fa, lo farà su un paletto un ma pochino no, più ma là. Ma capisci che è una presa per il culo, perché non la puoi gestire un'ordinanza del genere, non si può gestire. Poi scusa, Clelia, adesso andiamo un attimo in non un abbiamo break. Fatto parlare Clelia. Clelia, sono qui. Scusaci, perché poi io e Angelo ci facciamo ci prendere. Allora Clelia, però rimani in linea, c'è anche Bruno, vero? Sì, ci sono. Brunino, Bruno, hai seguito un po'? No, perché a Bruno gli è arrivata un'altra circolare per dirti l'assurdità, così parliamo di queste circolari che arrivano in questo caso dall'amministratore di condominio. Facciamo un attimo un break e ritorniamo subito dopo con voi. Ascolto Gianluca perché smettiamola con questo pippamentalismo radicale. Perché parla pure Terroni. Perché non sono un'anima in pena, sono un'anima in piena. Io ascolto Gianluca perché, guarda, sono 3 giorni che provo a chiamare, non me lo ricordo neanche più. Perché la vita è una giostra che va. Perché la libertà d'espressione è bella, ma non ci vivrei. Ascolto Gianluca perché in bicicletta non sono lento, sono diversamente veloce. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Allora, stiamo parlando con Clelia che ci ha scritto una mail dove ci racconta che è passata un'ordinanza del sindaco dove chiede di dover di poter andare in giro i possessori di cani con una bottiglietta d'acqua in modo che quando fanno pipì sciacquano per terra. Io non sono assolutamente d'accordo, perché secondo me le città dovrebbero essere tenute pulite dai negozianti davanti al loro spazio, dai cittadini davanti al loro portone, da chi poi dal deve pulire la città, dal comune che deve pulire, pulire la città deve e poi sta ovvio a me non cercare di fargliela fare davanti allo zerbino di una casa casa piuttosto che non, ma non dovrebbe passare. Ma siccome passare... la gente se ne fotte, ma siccome cioè, te la, la gente fa pure sullo zerbino, ti caga sul portone la gente, questo ecco. È il tuo... cioè fa fare la cacca del cane davanti al tuo portone. Ma sono sozzi quelli, ma devi dargli una multa invece che farti girare con la cosa. Ma dai le multe, la legge c'è, dalle ste cazzarola di multe, no? Che fai passare un'altra ordinanza sulla pipì, perché no, dai. Questo è chiaro. Allora, diciamo, quindi ricapitolando, l'ordinanza apre dei parchi e quindi libera molti dei cani. C'è però un punto che sta facendo discutere: è giusto portarsi dietro una bottiglietta d'acqua per sciacquare la pipì del proprio cane quando il cane la fa su muri, paletti? Tu, Clelia, cosa ne pensi? Allora, io ripeto un po' quello che avevo scritto nella mail che vi ho inviato, allora da una parte c'è il buon senso, l'educazione civica che impone, chiede, visto che abitiamo nelle città bisogna convivere nel modo più civile possibile, quindi niente, raccogliere la popò e sono d'accordissimo, chiaro, cioè è sacrosanto. Non farla fare davanti ai campanelli, davanti alle entrate delle case, ovvio. Davanti alle vetrine, perché è maleducato, insomma uno ci deve passare e pesta il lago di pipì. Per tutto il resto, sollevo un dubbio, nel senso che d'accordo che io stessa che ho il cane vado al parco per fargli fare pipì, popò, eccetera, però nella strada da casa al parco, piuttosto che devo andare in centro a fare delle spese, me lo porto dietro, è inevitabile che faccia la pipì da qualche parte. E scritte così queste ordinanze mi sembra che siano un modo per accattare un po' di soldi per le casse comunali, perché dopo capita il vigile molto diligente, chiamiamolo così, che applica alla lettera quanto c'è scritto nell'ordinanza, dove c'è scritto no sui muri, no per strada, no sul marciapiede, e non ti dice no se è possibile, non va a discernere da caso a caso, prima di tutto, e a discutere con il vigile per strada, ma guardi che era su un muro qualsiasi distante da qualsiasi parte, non avevo l'acqua con me perché l'ho finita, quello ti fa la multa, mi sembra un po', ecco, mi sembra che sia un po' esagerato. Iniziassero a dare le multe con quelli che non tirano sulla cacca invece, e io dico così. Senti, scusami, c'è Bruno? Sì. C'è anche Bruno, mio cugino, che io l'ho chiamato per un'altra cosa, ma nella pausa mi ci ha già raccontato che a te è capitata una cosa del genere con Ciccio, il tuo cane, sulla pipì, no? Sì, sulla pipì, figurati, è capitato, capita spesso. Non, diciamo, è evidente che la cosa che capita di più, quindi è giusto, quella di pulire, è quella della cacca, perché insomma sporca, insomma, e vabbè, soprattutto beh, poi quando c'è il problema della diarrea è un casino, perché lì è un casino. Come fai a pulire? No, perché bisogna avere la bottiglietta, lì sì, sarebbe avere la bottiglietta, perché lì almeno come dire, il danno che lasci magari davanti a un negozio, è un po' imbarazzante, quindi farlo. È chiaro che la pipì è un casino, perché effettivamente intanto c'è un tema che molto spesso dipende dai padroni dei cani, o insomma perché cosa succede? Che questi magari hanno voglia di uscire, o escono in ritardo, escono dopo un periodo troppo lungo per il cane. Questa è una raccomandazione per fare proprio a chi ha dei cani, perché a me, compreso me stesso, io che mi è capitato, poi non potevo lamentarmi se lui appena esce, ovviamente non fa la pipì, non riesce a trattenerla, dove trova, perché lì dipende molto da noi, perché insomma loro hanno un bisogno come noi, abbiamo bisogno dei tempi, ha bisogno anche loro, quindi questo è un tema. E poi effettivamente Milano è una città pazzesca da questo punto di vista, perché il verde è spesso non è vicino, e allora diventa un casino fare lo slalom, fare lo slalom e avere l'idea della bottiglietta. Non è male, solo che il problema è che quando tu fai una legge, è una legge che vale per tutti e vale sempre. E non può essere appunto dire, e quindi quando è possibile, quindi, che sottolineava Angelo, non se ne fottono tutti, fra l'altro, non è poi non si può mettere in una legge, la legge non l'ho vista, non si può mettere quando è possibile, ovviamente, perché la legge è una legge, vale come considerazione universale, tant'è vero che qualche volta nei prati dove porti i cani, insomma ti capita che lui dice no guardi, sì, ho capito che il suo è piccolo, ho capito che non c'è bisogno di guinzaglio, però qui ci vuole il guinzaglio, quindi lei come allora, la museruola è come la museruola, ecco. Allora io quindi qui è il problema, adesso bisogna vedere bene il tipo questo tipo di legge. Questa ordinanza si fa ad una sentenza della Corte di Cassazione del 2015. Il sindaco Lacci, che cacchio sto dicendo, come cacchio parlo? Te non mi influenzare, però che ridi. Che è una sorta di vademecum per chi porta fuori il proprio animale nei luoghi pubblici urbani, e che impone, nel caso in cui scappi la pipì, di intervenire prontamente con atteggiamenti tali da farlo desistere, quantomeno nell'immediatezza. Mettiamone un tappo. Nell'impossibilità di farlo, di portarsi dietro una bottiglietta d'acqua per ripulire. Essendo Cassazione, lui dice: noi abbiamo fatto altro che applicare la legge. Devo dire che l'accusa di zoointolleranza, perché l'hanno accusato di cinofobia, che è un'altra roba. Allora, animalisti, mi raccomando, cinofobia è una patologia, la fobia è una patologia, è un'altra roba. Questa qui sarebbe zoointolleranza. Ed è vero che quando uno è intollerante e gli metti in mano il potere di fare leggi, combina dei disastri, guarda le leggi contro l'omosessualità o via dicendo. Certo. No? Il punto è che non possiamo accusare il sindaco di zoointolleranza, perché in realtà ha aperto i parchi, ha fatto anche... Questa ordinanza, a parte sta roba della bottiglietta d'acqua, ha fatto fare dei grandi passi avanti in seno all'apertura nei confronti di chi è possessore di cani. Certo, questa roba, lui, dovendo fare la buona amministrazione comunale, che deve tener conto di tantissimi fattori, ha deciso anche di applicare questa sentenza della Corte di Cassazione. E invece, passando a Bruno, un'altra cosa allucinante: Bruno è andato a vivere da poco in questa casa che era della nonna Giuditta, la mamma di mio papà. E praticamente a un certo punto, dopo poco che tu eri lì, no? È iniziato l'amministratore di condominio, ha fatto girare una circolare molto interessante, no? La cosa è stata così: prima una signora che abita sotto di me è venuta a lamentarsi, per i tacchi e altre cose. Tacchi a spillo che porti tu di notte, giusto? Tacchi a spillo che porto io di notte, certo, sì, gli ho detto che non li porto sempre, solo d'estate, quando, diciamo, quando c'è il sandalo aperto. Di giorno, professore, di notte. Di notte Allora, a parte questo, tra le contestazioni che mi sono state fatte, quella sera che ero qui a casa mia con un amico, è quello di che di tagliare, mi hanno chiesto di tagliare le unghie a Ciccio perché faceva rumore. Allora, io al momento gli ho fatto verificare che a parte le avevo proprio combinazioni tagliate in quel due giorni prima. Ma gli avevo fatto fare una prova, però non c'è stato verso. La signora sosteneva che faceva rumore le unghie del cane, nonostante non ci sia il parquet, ma ci sia pavimento, faceva rumore. E dopo poco, sul telefonino, mi è arrivata una circolare in cui si ribadiva questa richiesta: si raccomandano tutti i possessori di cani di tagliargli le unghie perché questo disturbano la quiete notturna. Allora, ti sembra normale? Ho detto, non ho detto niente, non ho voluto replicare pubblicamente facendo un'altra lettera dicendo che si coprivano di ridicolo, e poi è finita lì, voglio dire, probabilmente. Ecco, questa qui è zoointolleranza. Un'amministrazione pubblica, una privata di un condominio che scrive questa roba qui, io francamente voglio dire Angelo dice che questa è proprio zoointolleranza, ma il passo è breve, perché si inizia perché di base bisognerebbe educare l'essere umano a essere una persona civile, e va da sé che l'uomo non butta le carte per strada, che se il suo cane fa la cacca la raccoglie, che cerca di fargli fare la pipì nei luoghi più adatti laddove è possibile. È inutile che tu vai a tamponare qualcosa quando non risolvi il problema alla fonte. La fonte siamo noi persone, la fonte siamo noi. Per quello mi fanno incazzare tutte le circolari, le ordinanze che fanno dopo, perché per esempio la legge sulla multa a chi lascia la cacca del cane per terra c'è, io non ho mai visto un vigile multa a uno, mai. E ho visto un sacco di gente che allunga il guinzaglio. Ci sono alcuni parchi in cui il parco dove ero io, il Baravalle, dove abitavo io prima, dalle parti di San Gottardo, effettivamente lì c'erano dei vigili, oppure quelli come si chiamano, i verdi, ausiliari, le guardie ecologiche, come le chiamano, che effettivamente se fermavano, vedevano uno che non puliva, gli dicevano giustamente. Ma lì c'era anche una comunità del parco che diventava una comunità di autocontrollo del parco. Sì, qualcuno di quelli che avevano i cani non tirava sulla cacca, glielo dicevano gli altri. Glielo dicevano: senti, vai a tirare sulla cacca, perché qui non è che siamo qua nella porcheria. Qui da noi, per esempio, invece vicino, cioè, è un disastro, perché tu vai nella zona cani, dove si possono lasciare liberi, ed è un porcaio unico, e quindi è ovvio che lì io non lo porto più, lo faccio viaggiare fuori. Mandiamo i vigili lì, invece avvisiamo i vigili di andare lì a vedere, così inizia a darle multe e vedi che il posto si ripulisce. Quelli è chiaro. Sulla pipì ovviamente la cosa è un po' più complicata. Io avevo pensato anch'io alla bottiglietta, però l'idea di non fargliela fare subito, l'idea di non farla fare, poi cioè, il problema c'è, allora i motorini sono fermi, hanno le catene vicine, non puoi fargliela fare lì, perché poi questo qui va a prendere il motorino con la catena, certo. Non puoi farla davanti ai negozi, non puoi farla, allora il pottinaio dice ma io non voglio pulire la ecco appunto, quindi non fai, allora, ma che cazzo fa il portinaio a fare? No, allora in realtà invece appunto dal punto di vista i palazzi lì bisogna, questo fa parte della, certo, della, e quindi devono pulirsi, perché sì. Voglio dire, infatti c'era, certo. In via Tartarino abitavo io, c'era un portinaio che non si faceva problema, è chiaro che ogni mattina veniva fuori con dell'acqua, puliva. Voglio dire, ma non è che si può, perché se no per la strada è pericoloso, perché insomma veramente. Vabbè, insomma, guarda, abbiamo sollevato. Poi ci sono aiuole dove ci sono divieto che i cani passino. Sì, quindi, infatti, quello che ho detto prima. Infatti. Senti, Clelia, sei contenta che insomma hai sollevato una discussione interessantissima? No, ma è giusto confrontarsi. Mi fa piacere che ci sia della discussione. Ma, guarda, su questa roba della bottiglietta d'acqua io non sono certo che sia la soluzione giusta, ma non sono neanche totalmente contrario. Cioè, la mia posizione in questo momento insomma, è riflessiva. Sì, perché la bottiglietta d'acqua te la puoi portare, se il cane la fa, per carità, per strada dove normalmente passa la nettezza urbana a pulire, ma lasciala pure. Però se la fa sul vicino a un negozio, sulla parete vicino a una vetrina, devono pulire loro. Tutte le mattine loro dovrebbero pulire, guarda. Uno deve stare attento a non farla davanti al negozio, ribadisco, davanti ai portoni, le cose, diciamo, però che sono avendolo fatto con l'acqua, so che si può fare, è meglio evitare. Ma tu non che... fai media. Comunque, detto ciò, scriveteci a Chiedimi se sono felice @radio24.it, così se volete dire la vostra su questo argomento. Intanto ringrazio Bruno che l'ho acchiappato al volo e ti aspetto a teatro, e anche Clelia sei stata gentilissima, e qualunque altra cosa siamo a disposizione. Clelia. Grazie a voi. Ciao. Ciao, grazie, ciao. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, #autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, Container, con Massimo De Donato. Faircam Distribution, spedizioni in Italia ed Europa su misura. Faircam.com vi presenta i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Oh, allora, a proposito, io che mi diletto e siamo in chiusura, facciamo una cosa bella. Insomma, sì, proprio bella. Bellissima. Anzi, due. Esatto. Anche tre, ne facciamo mille belle. Ma facciamo solo cose belle noi, anche quando sembrano brutte. Comunque, abbiamo letto una mail di Antonino. Antonino che abita a Barcellona, proprio tra poco ci dirà dove specificamente. Barcellona, provincia, sì, di Messina. Abita a Barcellona. Abita a Barcellona, adesso allora noi ci ha lasciato il suo numero, l'abbiamo chiamato perché vogliamo che vi racconti una storia fantastica riguardante sua suocera che si chiama Antonina. Antonino? Sì. Eccoci. Ciao. A parte che voglio dire, uno che scrive per la suocera è strano, no? È perché normalmente bello. Tra suocera e cognato, come si dice? No, cognato. Come si dice? È genero. È genero. È genero. È certo. Senti Antonino, allora tu ci scrivi per tua suocera, no? Perché tu dici che è rimasta vedova poverina e che sono già più di 20 anni che vive con voi e che ha fra l'altro compiuto 80 anni, un giorno meraviglioso, il 17 febbraio, come me, capisci? Quindi hanno compiuto gli anni da poco. Allora, però ci scrivi che Antonina praticamente da tutta una vita serve i gatti, cioè li dà da mangiare, si occupa di loro, giusto? Certo, si serve i gatti, tra l'altro ne abbiamo anche uno in casa. Eccovi. Ma che particolarità ha Antonina? Perché tu ci hai scritto la mail? È la particolarità che purtroppo non vede quasi al 100%. Ah, figurati. Quindi quasi... E scende quotidianamente con un bastone, gli prepara 2 volte al giorno da mangiare ai gatti e li scende sotto, che ne avremo in cortile una decina. Che cosa gli fa da mangiare? No, compra le scatolette, compra la carne, ma li tratta abbastanza bene, come tratta bene anche la gatta che abbiamo in casa da 16 anni. Che meraviglia. Allora Antonina, brava, sì. a parte grazie Antonino che ci hai scritto, no, per la tua social, però quindi ti vogliamo dire, Antonina Contazzi si chiama, no? Mi sembra. Sì. La sì. Salutiamo, cioè questo è un premio per l'onore, no, che ha mantenuto in ma tutti questi anni. Ma fra l'altro devi sapere che Antonina le sue giornate le passa facendo da mangiare i gatti 2 volte al giorno e poi sul divano a pregare, giusto? Sì, sì. Quindi, molto devota per questo. Molto devota, bellissimo. Cioè, mi ricorda la mia terra questa sì. roba qua. Mia nonna si riuniva a recitare il rosario con tutte le amiche, le sue vicine di casa. Si mettevano sulle sedie fuori dalle abitazioni e recitavano il rosario. Bellissimo. Su queste strade meravigliose con tutte le case bianche, un cielo terso fantastico. E che vi devo dire? Senti, tu arrivi da tu sei da Barcellona? Barcellona, Pozzo di Gotto, provincia di Messina. Ah, vedi. Famosissima in Spagna, no? Come tutte sapete. Sì, quasi. Vabbè, il clima comunque è fantastico. Allora Antonina, grazie a nome dei gatti, a nome, insomma, sono 60 anni praticamente da quello che ho capito, che tu ogni giorno fai questa cosa, veramente onorevole da parte tua, ci sei molto piaciuta a me e a Rosita e tuo genero si è proprio prodigato per scriverci la mail ed essere chiamato. Esatto. Davvero brava. Bravo anche tu Antonino, perché grazie. Se l'hai scritta è perché condividi con lei e come si dice, capisci che sta facendo qualcosa di bello e di buono, quindi naturalmente sì. Il fatto di poterlo raccontare e condividere con tutti gli altri. Grazie mille Antonino, buona vita a grazie, tutti quanti voi. Grazie ciao Antonino. Grazie. Ciao sì. Antonina, mi raccomando, un abbraccio. Noi degli acquari siamo le numero uno. Ciao Antonini, ciao anche siciliani, perché veramente ciao, è un altro popolo, terra che terra meravigliosa. Un altro popolo che amiamo, no? Che qua siamo veramente. Ma ciao. Adesso passiamo al pranzo. Piatti e ciotole. Donna Mara, che cosa ci hai preparato oggi? Oh? Buongiorno a tutti. Cioè, siamo passati dal dialetto, dalla cadenza pugliese sì, a quella siciliana. Incredibile. Allora, oggi vi propongo il tofu strapazzato, che è uno dei piatti diciamo che mangiamo più volentieri in casa mia, quindi lo condivido con voi. Vi occorrono 250 grammi di tofu al naturale, mm-hmm. 2 zucchine, 2 melanzane piccole, 1 cucchiaino di olio extravergine d'oliva, 1 pizzico di sale, 1 bustina di zafferano, basilico e prezzemolo tritato. Mm-hmm. Ungere una padella antiaderente con un cucchiaino d'olio, nel frattempo tagliare le verdure molto sottili con la nostra famosa mandolina. Scaldate la padella e versate le verdure, saltatele per 5 minuti in modo che non perdano la croccantezza. Mm-hmm. Aggiungere il tofu sbriciolandolo sopra le verdure e cuocere per 5-6 minuti. Alla fine potete unire lo zafferano sciolto in mezza tazzina d'acqua e versarlo sopra gli altri ingredienti. Mescolate bene per armonizzare i sapori e poi spegnete. Aggiungete le erbe aromatiche ed eventualmente il pizzico di sale. Il piatto umano è pronto così e lo potete accompagnare a delle fette di pane tostato. Per la nostra ciotola invece, per la nostra ciotola sia per cani che per gatti, possiamo accompagnarlo al riso soffiato o a un altro tipo di cereale soffiato e vi consiglio di cambiarli ogni tanto, quando finite la confezione, di comprarne uno diverso in modo tale da soddisfare veramente tutte le esigenze nutrizionali dei nostri amici animali. Ma che bontà! Ma che bontà, ma che bontà quella robina qua. No, ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Vi invito a provarlo. Bene. Che meraviglia, Mara. Mara. Allora ricordiamo, come tutte le volte che ci tocca, vi diamo un consiglio: se volete riascoltare qualcosa delle nostre puntate, o in particolar modo le ricette, perché magari ci state ascoltando, non avete preso appunti, volete ripetere questa cosa qua, andate nella sezione podcast della trasmissione Chiedimi se sono felice sul sito di Radio 24. Se volete scriverci, magari fare anche qualche domanda, Mara di Noia, scriveteci a Chiedimi se sono felice @radio24.it, e se volete approfondire andate su vegachef.it, che è il sito di Mara di Noia, che ha questa visione nella quale cucina una volta per tutta e per tutti, perché lei cucina e ha cucinato sia per la sua famiglia che per cani e gatti, declinando che fa parte sempre della famiglia, che ormai sono una donna romantica, non cambierò mai. Hai visto? E diciamo qua, possiamo pure dire questo ottimo lavoro che ha fatto la Mara di Noia, perché poi e questo che cos'è? Si sta chiedendo Rosita, che cos'è? Ma no, sembra la base più naturale. Ma non è quella originale del padrino? È una Garini. Ah sì, eccola, la musica adesso del padrino, che comunque non è d'accordo con questo genere di filosofia. Minchia, con me deve parlare. Picciotto, devo dire le date del teatro. Allora, se volete venirmi a vedere con Qualche volta scappano, ragazzi, un'opera francese, una commedia francese divertentissima con Pino Quartul e Attilio Fontana, l'11 e il 12 marzo sarò a Bologna, dal 14 al 19 marzo a Milano al San Babila e l'11, il 12, il 13 aprile a Roma al Quirino. Mi raccomando, vi aspetto, sappiate che è una commedia che diverte soprattutto quelli che i cani non li hanno e che non sopportano noi che amanti dei cani. Si parla di fedeltà, di tradizione, di perdono, di amicizia, di tutto quanto. E diciamo, se non venite a teatro avete tradito la famiglia, e se tradite la famiglia con mia ve la dovete vedere, avete capito? Che devo fare, Mara? Non ho un uomo, ne ho 10 nel letto io a casa. E di questo non te deve lamentare. E chi visto che sono tutti riuniti a me. Appunto, chi se lamenta? Scusa. Questo fa un po' troppo la donna libertina a volte. A fare il teatro, sui parchi, in giro per l'Italia. Io, è un uomo come me, che cosa deve andare a pensare? No, ti dirò che lui adesso fa la battuta, ma sappiate che è veramente così. Io non parla così, ma geloso è geloso. Questa è la mia vera voce. Sì. Avete capito? Ecco, passiamo al pugliese. Dimmelo in barese. Oh, che tu non è che te ne puoi andare in giro per l'Italia mo così su tutti i palcoscenici senza che io ti controllo, Rosita. Coi mi aiutante ha detto la stronzetta giornaliera. Grazie Peter della regia. Grande Peter. Grande che cosa? Grande cosa? No, sì, perché bisognava un attimo stemperare le cazzate con. Va bene, ma grazie di averci fatto compagnia in queste in questi ultimi. Mi sono divertita molto. Grazie. Un abbraccio, Mara, ti aspetto a teatro. Ciao, ci vediamo il 19. Buon, fantastico. Grazie, Mara. Grazie. Quindi voi scriveteci. Chiedimi se sono felice, @radio24.it con Rosita Celentano e Angelo Vaira. Ciao, arrivederci alla prossima. Buona domenica, vi aspetto a teatro.